Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, a partire dall'assemblea degli azionisti del Monte dei Paschi di Siena, che deve deliberare sull'aumento di capitale da 5 miliardi e la conversione delle obbligazioni subordinate. Vi dico già però che avremo una finestra verso le 18.15 proprio sul maltempo, perché la situazione, ahimè, sta peggiorando. Da quello che abbiamo capito in Liguria adesso la stima è della peggiore precipitazione da 12 anni a questa parte, ed è ovvio che lo spettro poi vada alla famosa alluvione del 94, ma non c'è solo la Liguria, c'è soprattutto il Piemonte nella provincia del Cuneense, e resta ancora tutta l'allerta sul nord-ovest, piogge che poi si sposteranno anche nella parte del centro-sud. Lo dico perché la situazione va valutata e avremo un approfondimento che non c'entra chiaramente con l'economia, ma con la situazione emergenziale alle 18.15. Torniamo invece ai temi di questa giornata economico-finanziaria. Al di là del Monte dei Paschi, l'altra grossa notizia riguarda sempre l'Italia, del via libera definitivo del Consiglio dei Ministri a 5 decreti attuativi della cosiddetta riforma Madia, quella sulla pubblica amministrazione. Tra questi decreti spicca quello sulla dirigenza. Nel pacchetto oggi approvato dal Consiglio dei Ministri anche il riordino delle Camere di Commercio, dei servizi pubblici locali, gli enti di ricerca e il famoso provvedimento di semplificazione Scia Bis, di cui ci siamo occupati ieri per la parte che riguardava la possibilità dei comuni di decidere, come ha fatto il Comune di Firenze, quali esercizi commerciali avere nei centri storici o comunque di interesse culturale e monumentale, con l'ipotesi che potessero scegliere di avere fino al 70% di esercizi commerciali di prodotti locali. I rischi li abbiamo messi in evidenza anche ieri, ma oggi ci occuperemo di altro, e anche, diciamo, dell'incontro tra il ministro della pubblica amministrazione Marianna Madia e CGIL CISL e UIL sulla riapertura della contrattazione nel pubblico impiego dopo un blocco come aumenti e contrattazione che dura da 7 anni. I sindacati punterebbero un aumento salariale non inferiore a 85 euro una volta regime, e poi si tratta anche, per superare la cosiddetta legge Brunetta, da ridando spazio al contratto anche per la distribuzione dei premi. Tra l'altro, una ventina di rappresentanti del USB hanno tentato di entrare al Ministero della Pubblica Amministrazione, sono stati fermati le forze dell'ordine, qualche aumento di tensione. Vogliamo essere al tavolo, dicono, perché comunque 35 euro di incremento non sarebbero sufficienti. Ne parleremo in maniera approfondita. E poi un altro tema, più marginale ma non solo, e riguarda quello che è successo ieri con le centrali nucleari francesi. Perché ce ne occupiamo noi? Perché da questo punto di vista è vero che quella che era sembrata un allerta, un pericolo fortissimo, poi per fortuna è rientrato, ma il blocco da alcune di queste centrali avrà comunque una ripercussione anche sulla bolletta elettrica. Lo scrive oggi sulle 24 ore e ce ne occuperemo anche noi in un approfondimento apposito. Tra l'altro, visto che parlavo della parte che riguarda l'Italia, faccio notare che oggi il decreto fiscale collegato alla manovra è passato questa mattina con 162 voti favorevoli, 86 contrari e un astenuto. È passato anche al Senato, e a questo punto tutto il decreto fiscale di cui ci siamo già occupati, quindi rottamazione delle cartelle Equitalia, per dirne una, con altre cose che invece sono uscite, è legge, perché era già passato alla Camera. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore, trasmessi anche su RDS, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 ore, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 ore. con Salvatore Padula. Il decreto fiscale è diventato legge. Poche ore fa l'Aula del Senato ha dato l'ok alla fiducia chiesta dal governo. Quindi in tempi record il Parlamento ha approvato definitivamente un testo che è parte integrante della manovra di bilancio e che vi contribuisce con maggiori entrate per circa 4 miliardi e mezzo per il 2017. Le nuove entrate arrivano sostanzialmente dalle sanatorie, c'è la rottamazione delle cartelle di Equitalia, c'è la riapertura della voluntary disclosure, ovvero la procedura per il rientro dei capitali all'estero, c'è infine la chiusura agevolata di alcune tipologie di liti fiscali, nello specifico quelle che riguardano le accise. Oltre che dalle regolarizzazioni, le nuove entrate dovrebbero però arrivare da alcune misure per il contrasto dell'evasione fiscale, con l'introduzione di nuovi obblighi di comunicazione a carico dei professionisti e delle imprese, che con questo decreto si vedono quindi moltiplicare alcuni adempimenti come l'invio di tutti i dati relativi all'IVA. Inizialmente l'invio avverrà ogni 6 mesi, poi dal 2018 ogni 3 mesi. Si tratta quindi di nuove regole molto contestate dagli operatori. Ovviamente nessuno mette in dubbio che il livello di evasione che abbiamo in Italia, in particolare sull'IVA, non richieda forti interventi decisi in materia di evasione. Tuttavia è altrettanto ovvio che il contrasto all'evasione va condotto con una strategia che non può diventare sempre e solo la moltiplicazione degli adempimenti, come avviene anche con il testo del decreto legge approvato oggi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, sì, mi chiede un ascoltatore, ma cosa vuol dire potrebbe arrivare meno energia in Italia in riferimento all'allarme sicurezza per le centrali nucleari in Francia? Sì, questo purtroppo sembra abbastanza un rischio certo. Lo stop ai reattori, che potrebbe riguardare fino al 44% degli impianti transalpini, è chiaro che ha innescato una corsa al rialzo dell'energia nel nostro paese, tant'è che tra ottobre e novembre il prezzo dell'energia è salito da 53 a 59 euro per megawatt ora. L'autorità per l'energia ha fatto sapere comunque che la revisione trimestrale delle tariffe attese per dicembre terrà conto del fenomeno, ne parleremo più avanti. Lì c'è un problema di sicurezza totale, sono 12 reattori fermi, sono, tra l'altro l'accusa molto pesante, un'accusa tutta interna alla Francia, riguarda il fatto che sarebbero stati nascosti 400 dossier che riguardavano le anomalie di alcune centrali. Secondo il rapporto dell'EGLA è la causa di morte di 470.000 morti premature all'anno. Però insomma, questo lo smog in generale, però come saluto in Europa. Il problema è che all'interno di questo rapporto dell'EA sulla causa di morte dovuta allo smog si inserisce anche l'allarme lanciato dal presidente dell'autorità francese sulla sicurezza nucleare e dice: attenzione, la situazione dei nostri reattori è stata nascosta anche per dossier riguardanti anomalie segnalati ma poi appunto non pubblicati, messi in un cassetto. Andiamo avanti con le notizie internazionali. Continua a calare l'oro, che è sceso a altri minimi rispetto a quasi inizio anno, 1189 dollari l'oncia, petrolio fermo a 48 dollari al barile. Sul fronte dell'economia internazionale faccio notare che ci sono alcune notizie che riguardano, da un lato, l'euro che continua a deprezzarsi contro il dollaro, ma oggi è più che altro il dollaro, ad essere corretti, che si apprezza, cioè che si rafforza nei confronti di tutte le valute. L'euro è a 1,05, era sceso quasi quota 1,04 1,05, però il dollaro si apprezza anche verso tutte le monete asiatiche. Tra l'altro in India, a chi può interessare, la rupia è calata a 68,83 dollari, cioè vicino ai minimi storici, tant'è che ci sono voci di mercato che ipotizzano un intervento della banca centrale indiana. Ma non è tanto l'India ad avere problemi valutari, chi ce li ha grossi in questo momento è soprattutto la Turchia, tant'è che la banca centrale turca, in controtendenza, diciamo così, con quelle che erano indicazioni del premier Erdogan, premier, insomma, chiamatelo come volete, visto come si sta comportando con i diritti anche elementari civili in Turchia, che gli sono, mi sembra, molto sconosciuti. Però, dicevo, la Turchia con la sua banca centrale ha alzato i tassi di interesse per arginare il calo della lira turca, erano fermi dal 2014, e ha sfidato la banca centrale turca in qualche modo le pressioni del governo, che non voleva un aumento dei tassi di interesse. Perché deve difendere la lira? Perché la lira turca è in grossa difficoltà da dopo il colpo di Stato e dalla reazione di Erdogan sul colpo di Stato, e una difficoltà che è ulteriormente aumentata, come raccontavamo, nei confronti del dollaro da quando è stato eletto Trump. Ripetiamolo ancora, Trump si prevede che faccia una politica molto espansiva, aumenti il deficit, aumenti però anche gli investimenti, quindi aumentando potere d'acquisto e consumi, aumenterà l'inflazione. La banca centrale americana, la Federal Reserve, non ha più remore nell'aumentare i tassi di interesse già dal prossimo mese. E per la Turchia oggi non è un bel giorno, nel senso che mentre la banca centrale si muove contrariamente a quanto chiesto dal governo, Strasburgo, il Parlamento europeo meglio, ha invitato la Commissione e i governi dell'Unione Europea a sospendere temporaneamente i negoziati di adesione in corso con la Turchia, risoluzione approvata a larghissima maggioranza, 479 voti a favore, 37 contrari, 107 astenuti. Qual è la motivazione? Proprio le misure repressive sproporzionate dopo il tentato golpe. Ma voglio dire, se l'Europa ancora ha un senso e vuole battere un colpo, mi sembra il minimo sospendere i negoziati di adesione in corso con la Turchia. Già si diceva che avrebbe dovuto garantire maggiori diritti democratici, qui siamo tornati indietro di 30 anni, ma che cosa negozi con uno come Erdogan? Cioè, voglio dire, tu avrai le tue trattative commerciali, ma negoziare o mantenere i negoziati sull'adesione della Turchia all'Europa mi sembra una follia. Continuano le notizie nefaste in Gran Bretagna sugli effetti della Brexit, e ripeto, sono sempre fonti britanniche quelle che citiamo. Al di là del danno di quanto costerà, il fatto che ieri il governo britannico ha rinunciato a quello che è un mantra nel mondo anglosassone, nel mondo britannico, cioè il pareggio di bilancio, non lo vuole fare nel 2018 perché vuole tenersi dei soldi a disposizione, cioè deficit zero, non ce l'ha più come obiettivo perché vuole mantenere dei soldi per tamponare gli effetti della Brexit, come spiegavamo ieri, in primis magari cercando di avere delle agevolazioni fiscali per convincere i gruppi che vorrebbero abbandonare Londra a restare in Gran Bretagna. Un'altra notizia negativa arriva oggi perché 10 anni di stipendi bloccati in Gran Bretagna senza alcun incremento in termini di valore reale. Ora, la previsione la fa il think tank che fa da sempre in Gran Bretagna le pulci ai conti pubblici del Regno Unito, si chiama Institute for Fiscal Studies, e il cancelliere dello scacchiere, Philip Hammond, ha illustrato i dati e difende la prospettiva terribile soprattutto per le famiglie a medio e basso reddito. Si tratterebbe di un impasse senza precedenti e per il livello di vita della popolazione dall'epoca della Seconda Guerra Mondiale. È chiaro che ha usato le cifre del bilancio di cui parlavamo prima e mostrate ieri dal ministro del tesoro, ministro dell'economia, si chiama cancelliere dello scacchiere Philip Hammond. Andiamo avanti per quello che riguarda il referendum italiano. Oggi si è occupato anche il vicepresidente della BCE. È molto difficile anticipare le conseguenze del referendum costituzionale in Italia. Per i policy makers non è possibile prepararsi all'esito del voto italiano. Comunque, secondo il numero 2 della BCE, il settore bancario italiano sta mostrando capacità di resistenza e i mercati non sono troppo preoccupati riguardo alla solvibilità delle banche italiane. Allora, oggi il Premier Renzi ha detto sostanzialmente che, parlando all'Assemblea Pubblica dell'ANFIA, Automotive Industria 4.0, che vi saranno 20 miliardi di incentivi fiscali che vanno investiti subito a chi innova. Questo è il piano che è presente nella legge di stabilità, che si chiama sia iperammortamento che superammortamento. Uno vale il 140% dell'investimento fatto, che puoi appunto detrarre, l'altro vale addirittura il 240%, e questo è il pacchetto da 20 miliardi. C'è l'elemento del futuro. L'elemento del futuro che è Industria 4.0. Non stiamo raccontando di progetti, non sono semplicemente slide di introduzione alla materia. Stiamo discutendo di leggi, di soldi, 20.4 miliardi di euro di incentivi fiscali. 20 miliardi di incentivi fiscali che però vanno spesi, che vanno investiti subito, vale a dire che vanno dati a chi vuole investire subito, a chi innova davvero. È probabilmente il più grande piano di politica industriale fatto da anni a questa parte. Abbiamo rimesso l'industria al centro, che non vuol dire naturalmente non fare di tutto per investire sull'agroalimentare, sul turismo, sull'innovazione o sulla qualità della vita, ma l'industria come elemento qualificante il nostro lavoro. Allora, è arrivata la notizia nel frattempo che lo stabilimento Ferrero ad Alba resterà chiuso a scopo precauzionale dalle 18, quindi adesso di questa sera, per tutta la giornata di domani. Quello di Alba è il più grande stabilimento della Ferrero in tutta Italia ed è situato non lontano dal fiume Tanaro. Stanotte è attesa la piena, ma ecco perché ce ne occuperemo alle 18.15. Anche la caserma della polizia stradale a Ceva, in provincia di Cuneo, sta allagata dall'esondazione del fiume Tanaro. Si sono salvati 3 agenti che erano all'interno degli uffici, salvati dai vigili del fuoco. Per cui, insomma, temo che da qua alle prossime ore, non è che temo, la previsione è che da qua alle prossime ore tutto continuerà a peggiorare. Allora, veniamo ancora a due notizie prima di passare alla riforma della pubblica amministrazione. La crisi economica starà anche rallentando rispetto agli anni scorsi, e questo è vero, ma ci sono moltissime famiglie che restano comunque vulnerabili dal punto di vista finanziario. L'osservatorio sulla vulnerabilità economica delle famiglie italiane, in uno studio realizzato dall'Università degli Studi di Milano, a individuare come le difficoltà economiche per arrivare a fine mese riguardino in maniera diversa il 61% delle famiglie, il 40% hanno alcune difficoltà, il 13% molte, l'8% proprio non ce la fa. E invece una notizia non buona arriva dai flussi commerciali con i paesi extra UE, meno 1,1% il dato degli export extra UE, mentre sono tornate a crescere le importazioni, più 3,6%. Rispetto a ottobre del 2015 il calo dell'export è del 2,3%, ma a quel punto, se si confronta sull'anno prima, c'è un calo anche delle importazioni, meno 5,5. I paesi dove abbiamo esportato meno rispetto a un anno fa: gli Stati Uniti il 2% in meno, la Russia il 12% in meno, la Turchia il 16% in meno. Invece segno più per i paesi OPEC, per la Cina più 9,5%, per il Giappone più 7,5%. Allora, via libera definitiva del Consiglio dei Ministri a 5 decreti attuativi della riforma Madia. Ne parliamo subito con Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Gianni, buonasera. Buonasera a voi. Senti, 5 decreti, quanti ne mancano in tutto? Allora, ne mancano sostanzialmente 4, di cui 3 secondari, uno invece molto molto importante, che è la riforma del testo unico del pubblico impiego. I tempi qui sono fino a febbraio per approvarlo, naturalmente dipende, come dire, da tutte le incognite che ci separano da qui a febbraio. Allora, qui c'è nei decreti attuativi, perché abbiamo spesso spiegato che la riforma Madia era una riforma solo sulla carta e sarebbe restata una riforma solo sulla carta finché non si fossero e non fossero stati approvati i decreti attuativi. Oggi una parte è stata fatta, riguardano, se ho ben capito, quello sulla dirigenza il riordino delle camere di commercio, il riordino dei servizi pubblici locali, gli enti di ricerca e il provvedimento di semplificazione Scia Bis. Dopo il MET ci chiedo qualche minuto di pazienza, magari ce l'illustri punto per punto, a partire da quello dei dirigenti, che era quello forse non dico più atteso, ma insomma quello più conosciuto. E poi parliamo anche del rinnovo del contratto del pubblico impiego, 7 anni, che è bloccato da 7 anni, i sindacati puntano almeno 85 euro a regime. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Non ho dato la borsa, oggi gli Stati Uniti sono chiusi, c'è cioè Thanksgiving, e quindi le borse europee viaggiano da sole, meno 0,25% Milano in chiusura, più 0,22% Parigi, più 0,26% Francoforte. Invariata Londra, avremo un'ampia pagina proprio sul Monte dei Paschi, oggi poco mosse alcune le banche in generale, Milano comunque perde un altro 2%, Banco Popolare l'1,90%, Azimut meno 1,50%, come Unipol bene invece il Monte dei Paschi più 4% e poi Buzzi Unicem più 2,80%, Ferrari più 2%, meteo. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno inclusi nel prezzo. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Allora, già ritrovati, partiamo dai 5 decreti attuativi sulla riforma della pubblica amministrazione che più volte abbiamo invocato e partiamo proprio dal quello sulla dirigenza. Sì, allora, la riforma dei dirigenti è quella politicamente più sensibile, in pratica introduce un sistema di incarichi a tempo, durano 4 anni, con un meccanismo di ruoli unici, cioè dirigenti dei ministeri, del Ministero X, non sarà un dirigente del Ministero X per tutta la sua vita, ma parteciperà a una serie di incarichi e di bandi che lo potranno spostare in diverse pubbliche amministrazioni. Per far partire tutto questo meccanismo serve un sistema di valutazione, infatti è una riforma per così dire a scoppio ritardato, perché c'è scritto che partirà solo una volta che questo sistema di valutazione delle performance, dei risultati eccetera sarà messo in campo, perché altrimenti mancano i criteri in base ai quali confermare, scegliere oppure negare l'incarico a questo o a quel dirigente. Questo stato di sospensione mostra che il tema è politicamente molto sensibile, naturalmente i dirigenti pubblici, in particolar modo i dirigenti di prima fascia, quelli di vertice dei ministeri, hanno diciamo così un potere di interlocuzione molto forte, infatti è il testo più discusso tuttora anche dopo il secondo passaggio del Consiglio dei Ministri. Eh sì, è quello che appunto prevede, come tu dicevi, 4 anni, quindi non più a vita, e soprattutto in base anche alla funzione, no? Questo attraverso sì, anche... è come se si partecipasse a una serie di bandi ogni 4 anni per ricoprire questo o quel posto, e se si rimane parcheggiati si perdono progressivamente parti. Allora, e questo è uno. Gli altri riguardano riordino delle Camere di Commercio e Servizi Pubblici Locali, Enti di Ricerca e la Scia Bis. Il riordino delle Camere di Commercio è un altro tema delicato, perché sostanzialmente la riforma prevede di passare da 105 a 60 Camere di Commercio e di fare dei piani di razionalizzazione per la riduzione dei costi. Ricordiamoci che i diritti camerali, cioè i diritti che pagano le imprese per essere... iscritti alle Camere di Commercio, sono già stati sostanzialmente dimezzati rispetto al 2014, e questa è la seconda tappa. Anche da questo punto di vista qui c'è un evidente riflesso sulla occupazione, perché i dipendenti delle Camere di Commercio andranno ricollocati all'interno della pubblica amministrazione. E poi servizi pubblici locali, enti di ricerca, la Scia Bis è quello di come ci siamo occupati anche ieri per quello che riguarda la facoltà, la possibilità da dare ai comuni di scegliere se avere 70% per esempio degli esercizi commerciali di prodotti locali. Sì, esattamente, è una parte di quel certo. Provvedimento, c'è diciamo la parte che interessa da vicino poi molti cittadini è l'ampliamento delle attività edilizie che non hanno bisogno della autorizzazione preventiva, quindi della cosiddetta edilizia libera, E poi c'è appunto questa possibilità di limitare le tipologie commerciali, in particolar modo nei centri storici, è una possibilità che crea polemiche, perché naturalmente si tratta di un parziale passaggio indietro rispetto alla liberalizzazione che c'era stata negli ultimi anni, perché dà nuovo potere agli amministratori locali di dire: tu che vendi i panini o gli hamburger nei centri storici del mio comune non apri. E ne abbiamo discusso ampiamente ieri, la posizione di Federdistribuzione è nettamente contraria e infatti ha detto che farà ricorso alla consulta su, poi, su questa... qual è il testo definitivo, perché esatto. Lo stavano limando perché alcune parti rischiano di essere fuori delega. Fuori delega, sì. Ultima domanda, il rinnovo del pubblico impiego. Siamo ancora alle prime, diciamo, ai primi incontri, perché oggi è stato l'incontro tra il ministro Madia e CGL, CISL e UIL. Dopo un blocco di 7 anni, si punta, mi sembra di capire, a 85 euro a regime di aumento? 85 euro a regime di aumento, quindi vuol dire aumenti progressivi, si arriva a regime nel 2018. La strada è quella percorsa dal governo e dai sindacati con le pensioni, cioè si fa prima un preaccordo politico e poi si avviano le trattative sul contratto. Naturalmente in queste ore, in questi minuti, governo e sindacati stanno limando, diciamo così, il testo di questo accordo, ma potrebbe già domani arrivare l'accordo con l'impegno politico del governo appunto ad arrivare a questo aumento di 85 euro e a nuovi meccanismi di distribuzione degli incentivi, premi di produttività, eccetera eccetera. Allora, nel ringraziare Gianni Trovati, rispondo anche a alcuni messaggi su pubblico impiego, perché noi domani avremo la nostra classifica sugli sprechi della pubblica amministrazione a qualunque livello, enti locali e nazionali. Però ci sono, come ricordavamo ieri su altri fronti, ci sono un po' di stereotipi sulla pubblica amministrazione. Guardate che in Italia il problema non è il numero né il costo della pubblica amministrazione, è la sua efficienza. Ecco perché è più importante partire, a mio avviso, dai dirigenti e il pesce puzza dalla testa o diciamo è buono dalla testa, per metterla anche in positivo. Ma non è il numero assoluto e il costo assoluto. Comunque, intanto, grazie a Gianni Trovati. Ve lo dico perché i dipendenti pubblici in Italia complessivamente, quindi medici, poliziotti, tutti erano un anno fa 3.250.000, questa è la fonte della Ragioneria Generale dello Stato, il che vuol dire che in Italia sono il 15% degli occupati totali. Su 100 occupati, 15 lavorano nel pubblico impiego. Guardate che la media OCSE è del 20%, ma in Gran Bretagna sono il 25%, nel nord Europa sono il 35% del totale. Quindi non abbiamo più dipendenti pubblici della media europea, ma ne abbiamo anche molti meno in proporzione agli occupati totali di tanti altri paesi, anche del nord Europa, anche dell'efficientissima Gran Bretagna. Ancora, da questo punto di vista, il costo totale per abitante è di 2.750 euro in Gran Bretagna, in Italia, quello che costa noi, diciamo, il pubblico impiego, il dipendente pubblico. In Gran Bretagna è un costo di 3.600 euro per abitante, in Francia di 4.300 euro per abitante, in Spagna è come in Italia 2.650 euro. A dire anche qui che il costo spalmato per abitante del dipendente pubblico non è assolutamente più alto ed anzi più basso di molti paesi europei. Quindi torniamo sempre al punto dell'efficienza della pubblica amministrazione, non del numero. E voglio dire, lo si capisce anche da un altro dato, dove invece qui la media nostra è negativa: l'età media dei dipendenti pubblici 15 anni fa era di 43 anni e mezzo. Adesso siamo a 50 anni quasi. Quindi cosa è successo? Hai bloccato il turnover, non assumi più e invecchia la media del dipendente pubblico. Pensate che oggi meno di un dipendente su 1.000 nel pubblico impiego è a meno di 25 anni. In Francia sono il 5%, in Gran Bretagna pure. Da noi, quelli che hanno tra i 25 e i 34 anni nel pubblico impiego, che quindi sono ancora giovani, volonterosi, più moderni e hanno voglia di fare, dovrebbero voglia di fare, sono solo il 7%. Contro il 20% in Gran Bretagna e il 20% in Francia, e la parte over 50, che è più di 50 anni, da noi è la metà, mentre in Gran Bretagna è solo un terzo, come è solo un terzo in Francia. Quindi problemi di efficienza, pubblico impiego, di controllo, di merito, di dirigenti che devono poter saltare se non fanno bene il loro lavoro, e di un'età media troppo alta, quindi invecchiamento del pubblico impiego. Adesso con un volo un po' pindarico passiamo, dopo il traffico, dal pubblico impiego al Monte dei Paschi e poi anche alla borsa e all'approfondimento, all'aggiornamento su quanto sta capitando, ahimè, in Piemonte. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Focus Economia. Guardate che a chi mi chiede sul pubblico impiego, i dati sono in percentuale, eh? Cosa c'entra dire che in Gran Bretagna e Francia hanno 5-6 milioni di abitanti più di noi? Ho capito, ma abbiamo dato i dati in percentuale, cioè qual è, fatto 100 il numero di occupati, il numero di occupati nel pubblico impiego, qual è il problema? Ci capiamo sul concetto di percentuale, no? Fai 100 una cosa, per cui è ovvio che Francia e Regno Unito abbiano più abitanti di noi, ma è una percentuale, così come il costo pro capite si spalma sulla base degli abitanti di un paese. Veramente non capisco concettualmente l'obiezione. E ripeto, noi lo attacchiamo spessissimo gli sprechi nella pubblica amministrazione, però un conto è dire che i soldi vengono usati male, un conto è dire che ci sono troppi dipendenti pubblici. Non è statisticamente vero. Oh, piaccia o non piaccia, eh? Monte dei Paschi di Siena, Marco Ferrando a Siena, bel tempo a Siena, si sta spostando al centro, ahimè, il maltempo, ma com'è il tempo, Marco? Saperlo, considerato che da 7 ore siamo rinchiusi nel bunker dell'assemblea del Monte dei Paschi, stamattina non pioveva, adesso comunque, non so. Domanda più pertinente, come sta andando invece l'assemblea? Sta andando per le lunghe come era previsto, siamo proprio in questo momento al secondo voto sui 7 punti a ordine del giorno, però insomma dopo la valanga di interventi della mattinata e della prima parte del pomeriggio sembra che si stia accelerando. Prima si parlava di pubblico impiego, una delle notizie è arrivata proprio dal Tesoro, che è primo azionista della banca, per la prima volta voterà nell'assemblea e voterà ovviamente a favore dell'aumento di capitale a 5 miliardi, ma anche la nomina del nuovo presidente Alessandro Falciai. Può sembrare un dettaglio, ma non lo è, visto che comunque il governo insomma ha avuto un ruolo non irrilevante nella vicenda del Monte. Ne sa qualcosa Viola, è l'ex amministratore delegato Fabrizio Viola. Senti Marco, Morelli, il nuovo amministratore delegato, ha detto che i piani della banca sono sganciati dal referendum. Questo mi sembra una cosa importante, però abbiamo letto male noi o c'era proprio in un documento di 2 settimane fa un riferimento alla data referendaria? Sì, è così. Morelli ha detto: per quel che ci riguarda noi andiamo avanti a prescindere dal referendum. Il problema è che la banca non riguarda solo la banca questa operazione, ma riguarda, come dicevi, anche le banche d'affari, sono tante, guidate da JP Morgan e Mediobanca, che dovrebbero confermare la garanzia, e giustamente, come ricordavi, nel contratto firmato si dice che le condizioni di mercato al momento dell'operazione saranno determinanti, e questo vuol dire che il giorno 5 dicembre, all'indomani del referendum, le banche d'affari si troveranno per vedere qual è il voto, qual è la reazione del mercato, e sulla base di questo clima decideranno se essere garanti oppure no. Quindi Morelli ha detto il vero, ma è anche vero che sommando tutti i vari elementi il referendum sicuramente sarà determinante. Allora, altre notizie che invece riguardano proprio il Monte dei Paschi. Da un lato ho visto il presidente dell'ente, della Fondazione Monte dei Paschi, Claric, dire sull'aumento decideremo dopo il 4 dicembre, perché non è scontato che la Fondazione, che ormai è una quota minore e minoritaria, partecipi all'aumento di capitale? Sì, è così. La quota non è minore, ma è quasi infinitesimale, nel senso che era l'1,4%, è stata dimezzata nelle scorse ore, oggi la Fondazione ha lo 0,7%, è una quota talmente rilevante sia rispetto alla banca che al patrimonio, pur anche questo molto come dire assottigliato della banca, diciamo una quota talmente rilevante che la Fondazione deciderà come qualunque investitore. Quindi se riterrà che l'investimento sia meritevole sottoscriverà, diversamente no. Tra l'altro non dimentichiamo che i soci non avranno probabilmente diritto d'opzione, il che vuol dire che non è automatica la possibilità di sottoscrivere. Ora è difficile immaginare che ci si ruberà le quote delle azioni di mano e che quindi non ci sia del capitale, cioè, diciamo, la corsa però a partecipare a questo aumento da 5 miliardi quasi, vediamo. Non la vedo nemmeno io, ecco, perché casomai è l'opposto, è spingere le persone a partecipare a questo aumento di capitale. E restando sull'aumento di capitale, però, perché qua si discute di un aumento di capitale, ma anche della conversione delle subordinate, no? Delle obbligazioni subordinate. Oggi hanno fatto un più 10% quelle dei bond people, come si chiamano in gergo, è il 2008-2018, sono tornati i compratori dopo una settimana di vendite, e questo in qualche modo fa il paio anche col titolo in borsa, più 3,32%. Marco. Sì, fermo restando che le incertezze dell'operazione sono tantissime, soprattutto, diciamo, legate al referendum, forse questo rimbalzo del bond di cui parlavi, così come quello del titolo, è legato al mood intorno all'operazione, che sembra lievemente migliorare, nel senso che tra gli operatori, i fondi, gli stessi azionisti, fino a poche settimane fa sembrava un'operazione, diciamo, disperata. Adesso lo rimane, ma forse un pochino meno. Sarà che dal Qatar, che, insomma, il fondo sovrano che sembra avere effettivamente un po' di interesse, è sempre subordinato al referendum, ma c'è. E non dimentichiamo Generali, che ancora ieri ha detto che potrebbe convertire i bond, e non sono pochi, diventerebbe socio al 7%, forse fanno un pochino alzare la temperatura rispetto al gelo polare di qualche giorno fa, e così potremmo, credo, anche spiegare il balzo del bond. Allora, grazie. E tra quanto finirà l'assemblea, cioè per sapere quando uscirà dal bunker? Buona domanda, sì, tendenzialmente ancora almeno un paio d'ore. Va bene. Allora, grazie anche a Marco Ferrando in collegamento con noi da Siena. Inizio a anticipare invece il tema dei mercati, del resto della borsa, chiaramente al netto del Monte dei Paschi. Che poi si chiama Ferrari più 2,20 come Buzzi Unicem, Fiat Chrysler più 1,70, Hugues Saint Porter più 1,40, Recordati più 1,20%, Saipem più 1,1. Il fronte opposto, Popolare di Milano meno 2,20 e Banco Popolare meno 2%, Unipol meno 1,50, Terna meno 1,30 come Azimut, l'1,1 lo perde UbiBanca, Unipol Sai, Moncler ed Exor, ma anche Atlanti e Mediobanca. Cosa fa l'America? Non fa niente, perché oggi è il Thanksgiving, il giorno del ringraziamento, e quindi le altre borse si chiamano Parigi più 0,30, Francoforte più 0,20, Londra più 0,17%. Adesso andiamo sul GR24, anche con gli aggiornamenti dalla Liguria e dal Piemonte, poi ci risentiamo in diretta. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Parleremo appunto di borsa, ma anche del rischio bolletta elettrica sullo stop alle centrali nucleari francesi e un aggiornamento, e lo faremo anche noi verso la chiusura, proprio dal Cuneense e la parte ligure. Sono Giorgio Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Giorgio Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per commentare la borsa, poi parlare delle conseguenze anche in Italia del blocco di alcune centrali nucleari in Francia, e poi l'aggiornamento su quello che sta capitando. Già il nostro GR24 vi ha aggiornato nella parte del Cuneese e della Liguria. Allora, dicevamo della borsa al netto del Monte dei Paschi di Siena, di cui abbiamo appena parlato, giornata negativa seppur di poco, meno 0,20%, mentre le altre borse, senza Wall Street che è chiusa per il giorno del ringraziamento, sono tutte leggermente positive. Di nuovo in flessione Banca Popolare e Popolare di Milano. Leonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. E invece in meno 2% entrambe. In positivo, oltre a Monte dei Paschi, anche Ferrari da un lato e il titolo Fiat più Ferrari più 2,20, Fiat più, Chrysler più 1,70. Sì, in questo caso diciamo sono state le indicazioni rilasciate da alcuni broker sull'andamento delle immatricolazioni in America. Ricordiamo che negli ultimi mesi le vendite di auto negli Stati Uniti hanno rallentato notevolmente il passo. Invece secondo JD Power e l'MC Automotive nel mese di novembre, anche se manca circa una settimana alla chiusura del mese, le vendite dovrebbero aver iniziato di nuovo a correre e messo a segno un progresso superiore al 5%. Notizia ovviamente positiva soprattutto per FCA, ma della galassia diciamo Agnelli, anche per Ferrari che non a caso ha registrato un più 2,2%. Allora, tra l'altro le banche hanno appunto zavorrato Milano rispetto alle altre borse europee, Unipol meno 1,50, UbiBanca meno 1,15, Unipol Sai meno 1,12, segnalo fuori dal mondo bancario Terna meno 1,40, Moncler meno 1,12%, Exor, la controllante di Fiat, meno 1,1%. Una mia curiosità, ma visto che è la Cyber Week, cioè domani è Black Friday, l'orgia, diciamo così, degli acquisti online, Black Friday in questo caso ha un valore positivo perché di solito lo usiamo in borsa quando c'è un venerdì nero che crolla tutto. I titoli legati, penso a Yux in primo luogo, legati al commercio online? Allora, Yux è andata bene, ha fatto più 1,38% proprio perché i vertici della società si aspettano di fare diciamo affari d'oro in questi giorni, non tanto domani quanto nel weekend e soprattutto diciamo l'orgia delle vendite online ci sarà lunedì perché il Monday il giorno appunto il Cyber Monday, cioè il giorno Monday, in cui sì. Ci saranno grandi offerte, grandi sconti da parte di tutte le società che vendono su internet e quindi si presumono affari d'oro. Affari d'oro per loro, speriamo anche per noi o per chi va a comprare online. I migliori e i peggiori in assoluto, tra l'altro oggi c'è notizia anche su titoli non così pesanti, ricordati da un lato e dall'altro però anche la Cassa di Risparmio di Genova che poi ha visto un po' ritracciare. Sì, per quanto riguarda Recordati più 1,2% si può dire che è stato un andamento corale con tutto il settore della farmaceutica in Europa, infatti il sottoindice farmaceutico ha vantato la miglior performance del vecchio continente assieme a quello della chimica, per cui diciamo che si è risvegliato l'interesse sul settore soprattutto su questo. Poi cos'è che mi avevi chiesto? Cassa di Risparmio di Genova. Sì, per quanto riguarda invece Carige, in questo caso c'è grande interesse perché c'è stata la notizia, la banca sta procedendo alla cessione della prima tranche di crediti in sofferenza per 1,4 miliardi e in più la Banca Centrale Europea, secondo indiscrezioni, avrebbe concesso un mese di proroga, un mese in più all'istituto genovese per presentare l'aggiornamento del piano. Tutte notizie che hanno fatto bene al titolo, che non a caso si è messo in evidenza sin dalle prime battute di questa mattina. Allora, migliore Ergi Capital più 7,5, P Quadro più 5, Biancamano più 5, la Lazio più 4%. Invece il peggiore in assoluto è Italia Independent, meno 5,70, Sintesi meno 5,20, Gala meno 4,80, Rizzoli, quella della Sera Media Group, meno 4,80% come le basta oggi. Grazie a Eleonora Micheli e noi cambiamo tema e ci occupiamo di, ripeto, c'è il problema della sicurezza delle centrali nucleari francesi perché sono abbastanza vicine, ma c'è anche il tema del costo della nostra bolletta elettrica. Che cosa è successo? Ieri il presidente dell'autorità francese sulla sicurezza nucleare ha lanciato un allarme sulla situazione dei reattori francesi. I dossier riguardanti anomalie sono stati segnalati ma poi nascosti. Allora, da questo punto di vista si rischia, se ho ben capito, il blocco di quasi metà delle centrali nucleari francesi e la conseguenza anche il 44% degli impianti per la sicurezza, per la precisione. Noi importiamo circa 4 miliardi e mezzo di kilowattora al mese dalla Francia, E se ho ben capito, ma giro la domanda a Jacopo Giliberto, nella settimana dal 7 al 13 novembre c'era un'Italia che vendeva ogni ora nella sola Francia in media 775.000 kWh. Però noi, tra l'altro, perché c'è una parte dell'energia noi la esportiamo ai francesi. Qui però è chiara la sproporzione tra quanto importiamo e quanto riusciamo a esportare. Jacopo Giliberto, buonasera. Già il prezzo dell'energia tra ottobre e novembre è salito da 53 a 59 euro per megawatt ora. Chiariamo che cosa ci ha già dato come indicazione l'autorità per l'energia sulla prossima revisione trimestrale della bolletta. Sì, l'autorità dell'energia nei giorni scorsi ha detto che l'effetto Francia si sentirà nelle nostre bollette di consumatori per il prossimo aggiornamento, che verrà fatto a fine dicembre, a valere dal 1 gennaio. Non ha ovviamente anticipato quale potrebbe essere l'incremento, l'entità dell'incremento, però sicuramente un aumento ci sarà. Ci sono le prime stime che parlano di un miliardo e mezzo per tutto il sistema Italia, dipende dalla durata della fermata dei reattori francesi. Adesso sono fermi una dozzina sui 58 reattori. Poi si spera di riaprirne alcuni, 7-8 entro la fine domanda di dicembre. Forse da ignorante, ma se facessimo marciare meglio, cioè a pieno regime tutte le nostre centrali, e immaginando di non avere bisticci così, tensioni tra la Russia e l'Ucraina nella parte delle pipelines, non riusciremo a coprire, diciamo, la mancanza di energia dalla Francia? Ma assolutamente sì, tant'è che in questo periodo ne esportiamo verso la Francia. Allora perché l'autorità per l'energia ci dice già che la bolletta aumenterà? Non è che stia usando questa come scusa, no? Secondo me no, ci sono due elementi che fanno salire i costi. Primo, il fatto che noi facciamo corrente elettrica soprattutto bruciando metano, che è un combustibile, più si produce corrente elettrica e più metano si brucia, insomma, è molto semplice. Il secondo fatto è che salgono i prezzi sulle borse elettriche europee, non solamente in Italia, anche in Belgio, Germania e così via, Svizzera. Salgono i prezzi perché aumenta la domanda, anzi la domanda è costante, diminuisce l'offerta perché si fermano le centrali francesi. Quindi, regola di domanda offerta, normale mercato, salgono le quotazioni. Quindi da un lato c'è un prezzo europeo dell'energia che noi subiamo, dall'altro, se ho ben capito, a noi costa un po' di più produrre a pieno regime con sostanzialmente metano di quanto non ci costi importare dalla Francia. Quindi se viene meno quell'approvvigionamento abbiamo una produzione che, quindi non c'è un problema di produrre elettricità, c'è un problema di produrlo a un prezzo un po' più caro. E vabbò. Ultimo aspetto invece, che è l'origine di questo problema, ma che cosa sta succedendo in Francia? C'è l'accusa dell'autorità di dire dossier riguardanti anomalie segnalati e poi nascosti. Beh, non è un'accusa da poco in quel paese, perché ci sarebbero stati molti dossier sulla capacità di reggere di questi impianti, Jacopo. Ed è un problema che si è manifestato non solamente in Francia, ma nei giorni scorsi anche in Belgio, per esempio. Cioè si sono infittiti i controlli, questo dopo l'incidente di Fukushima in Giappone nel marzo 2011, si sono infittiti i controlli, sono più severi, più rigorosi, più frequenti, e quindi cominciano a venire fuori adesso alcune sono levità, altre cose sono assai più serie. E i tempi per avere, insomma, per sapere se queste centrali riapriranno oppure no? Un mese circa. Quindi, diciamo, intanto la mia previsione è che l'autorità aumenterà il prezzo della bolletta e questo ce lo portiamo a casa, e poi vediamo quando riaprono le centrali francesi. Tutto sotto Natale, benissimo anche così. Grazie a Jacopo Giliberto. Traffico, e poi ci colleghiamo con il Cunense e la zona della Liguria per capire che cosa sta succedendo, visto che la piena, ahimè, è attesa nelle prossime ore. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Focus Economia. Allora, andiamo con ordine. L'incubo alluvione sul Cunese. Il prefetto Giovanni Russo ha invitato la popolazione a non mettersi in viaggio nella provincia se non per assoluta necessità, non sostare nelle zone adiacenti ai fiumi e ai corsi d'acqua evitando di rimuovere transenne o segnali di interdizione al transito. La situazione si aggrava di un'ora. All'inizio del programma abbiamo detto che la Ferrero ha deciso di chiudere dalle 18 lo stabilimento per due giorni, se ho ben capito, lo stabilimento di Alba, che è il più grande che ha in Italia. La situazione più grave è quella dell'Alta Val di Tanaro, in particolare Romea e Garessio, dove il fiume, qualcuno lo ricorderà, ahimè, era già stato responsabile dell'alluvione nel 1994, decine di morti allora. E il Tanaro è esondato in più punti. Ad Alba, chiuso per precauzione appunto lo stabilimento della Ferrero, problemi anche a Ceva, dove è esondato il rio Cheironzo, e la statale per San Bernardino è stata chiusa a causa di una frana. Mondovì, evacuate le scuole, emergenza maltempo che tocca anche la città di Cuneo. Il Po è uscito poi dagli argini a Torino, nella zona dei Murazzi, in pieno centro cittadino. Sospesa la produzione della Magneti Marelli a Venaria, è l'azienda di componentistica del gruppo Fiat. L'evacuazione dello stabilimento è stata provocata dalla piena del torrente Ceronda. E poi le previsioni anche sulla Liguria. Iniziamo però in Liguria, cosa succede? Esondazioni, allagamenti diffusi soprattutto in Ponente Ligure, decine di famiglie sfollate, per alcuni torrenti in piena. Le piogge hanno interessato particolarmente l'entroterra della provincia di Imperia, la Val Bormida, quindi nel Savonese. 50 mm di pioggia in un'ora nell'entroterra di Albenga, in tre ore 190 mm a Calizzano, 180 a Poggio Fearza, a Pieve di Teco, a Pornassio, a Colle Belenda, a Val Zemola. E viene definita una delle perturbazioni più importanti degli ultimi 12 anni. Allora ci colleghiamo da un lato con Andrea Ferro per la parte Ligure e del Ponente Ligure, e dall'altro con Filomena Greco, che è per la parte piemontese, da Torino ma anche il Cunese. E partirei da Filomena, perché la piena del Tanaro è attesa nelle prossime ore. Filomena. Sì Sebastiano, è così, queste sono proprio ore critiche, si stanno vivendo in Piemonte, la piena è attesa nelle prossime ore, come dicevi tu, ed effettivamente cominciano ad arrivare le segnalazioni del fatto che il livello del Tanaro, che è stato massimo questa mattina a Garessio e Ceva, quindi in questi piccoli centri che sono stati completamente allagati e dove il fiume è esondato, sta cominciando a scendere. Questo significa che la piena lascia, diciamo, la parte più alta del fiume per decorrere e defluire poi a valle. Quindi osservati gli speciali sotto un po' la lente degli operatori della sicurezza, sono proprio i fiumi, quindi il Tanaro, ma anche il Po e anche la Bormida. Questo è il terzo, diciamo, allarme lanciato nel pomeriggio, il terzo fiume, diciamo, interessato da questa piena, ed è già anche il Bormida esondato in un paio di centri. Quindi, come dicevamo, le ore sono un po' ore critiche. Questa mattina è stato un passaggio molto drammatico, perché i sindaci di quelle zone che sono state, come ricordavi tu, colpite nel 94 dall'alluvione che fece 70 morti, fu un'alluvione tremenda, un fatto molto tragico, hanno cominciato a dare l'allarme, a richiamare l'attenzione su una situazione che riconoscevano simile, insomma, no, a quella di più di 20 anni fa. Registro pochi minuti fa l'intervento dell'assessore regionale della protezione civile Alberto Valmaggia, che è ex sindaco di Cuneo, che quindi, insomma, un uomo che arriva da quelle terre, è intervenuto questo pomeriggio per dire che il sistema Piemonte effettivamente, analizzando la situazione a queste ore, ha imparato da quell'alluvione. Siamo in presenza, ha detto, di precipitazioni maggiori rispetto a 22 anni fa, ma la situazione oggi è nettamente diversa. Stanno reggendo i ponti, quelli che erano crollati nel 94, che sono ricostruiti, che sono stati poi ricostruiti, con una maggiore capacità di tollerare naturalmente la piena del fiume, ed effettivamente così sta accadendo, anche se effettivamente la caduta di acqua e di pioggia è abbastanza straordinaria. Questa mattina dall'ARPA si parlava di 150-200 mm in 12 ore, nel pomeriggio abbiamo ampiamente superato questo soglio, siamo in alcune zone sui 240-250 in 12-18 ore, quindi una carica d'acqua che in sé è abbastanza straordinaria, che quindi ha stressato completamente tutto l'intero sistema dei fiumi. E infatti su questo abbiamo raggiunto Sergio Di Stefano, che è sindaco di Garessio, il paese dove c'è la situazione forse più grave in assoluto, dove il Tanaro ha già invaso le strade. La situazione sta rasentando la medesima situazione del 94, quando ci sarà l'alluvione. di fatto sì, abbiamo dovuto chiudere tutti i ponti perché addirittura l'acqua passava sopra i ponti, no? Ecco, e non abbiamo danni alle persone per adesso, perché meno male, perché le scuole le avevamo chiuse, gli stabilimenti questa mattina hanno chiuso tutti. Durante questo c'è stata un'alluvione che poi in tutta la vallata c'erano state, l'avevo detto, di 24 morti, una cosa e l'altra, 21 anni fa, 22, insomma. Allora, nel ringraziare Filomena Greco mi sposto invece nella parte ligure, anche qui ho ricordato la parte dell'entroterra della provincia di Imperia e della Val Bormida. Ferro, Andrea. Buonasera Sebastiano. Sì, allora, innanzitutto in apertura di collegamento una nota, per così dire, incoraggiante, nel senso che nell'ultima ora ha perso vigore il fronte perturbato che ha flagellato la Liguria di Ponente in questa zona di confine, potremmo dire, tra le province di Imperia, Savona e Cuneo. Non significa che l'emergenza può rientrare, perché sulla base delle ultime osservazioni, anche diramate dalla Protezione Civile, c'è ancora una coda di questo fronte perturbato che potrebbe scatenarsi su un territorio, non è detto che debba essere sempre lì, però su un territorio compreso sostanzialmente tra Imperia e Genova, dove peraltro piove, ma piove senza particolari problemi. A proposito di accumuli di pioggia, in realtà il picco, vedevo ora su una cartina di queste qua, di questi siti specializzati, è stato al Santuario di Savona, picco di 72 mm di pioggia in un'ora. Io ora non posso dire che si tratti di un record, perché non ho chiaramente una letteratura di questo genere, però a naso credo che si tratti veramente di un indice che dice quanto sia piovuto e quali avrebbero potuto essere anche le conseguenze. Per fortuna sono esondati, come dicevi in apertura, il Bormida e altri torrenti, ci sono stati dei danni, ma per fortuna non ci sono state conseguenze. Ecco, su questo segnalo, per concludere, l'appello del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Totti, che ha detto, insomma, attenzione ai sindaci che non hanno voluto chiudere le scuole, insomma, meglio perdere un giorno di scuola che rischiare, insomma, ha detto attenzione perché, insomma, vi assumete una grossa responsabilità. Sentiamo un attimo Totti. Il mio consiglio prudenziale è di non scherzare, perché le previsioni del tempo della Liguria sono tra le migliori d'Italia. Questa è una perturbazione di grande importanza, lo ripeto, una ragazza di là agli idrometri mi ha detto che è una delle perturbazioni più complesse e importanti che ha visto passare su questa regione negli ultimi 12 anni, e quindi io credo che la prudenza in questo senso non sia mai troppo. Un giorno di scuola si recupera, danni più gravi non si recuperano, attenzione. E nel frattempo sospeso anche il traffico ferroviario tra Savona e Torino a causa dell'allagamento della stazione ferroviaria di San Giuseppe di Cairo. I tram e gli autobus invece saranno regolari domani in Piemonte e in Liguria. Ringrazio anche Andrea Ferro, e i prossimi aggiornamenti nel corso dei nostri GR24. Da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. Libera la voglia di fare.